Abbiamo ascoltato Senza soluzione di continuità, broadcast dal loro Berberian Sound Studio, gioiello del 2013, e con tante citazioni avete sentito nel mondo, ma soprattutto legate a un immaginario potentemente italiano. Ovviamente, essendo inglesi, citano anche momenti decisamente brillanti anche dentro le loro library, per tanti aspetti, insomma, lo accennavamo prima. La library inglese è molto particolare, molto più così concentrata rispetto a così momenti di sigle, veramente, quindi momenti legati allo spot, quindi più veloci, se vogliamo più saltellanti, o con comunque immagini anche più sonore, più sintetiche, rispetto invece agli italiani, che sperimentavano invece dilatando anche queste avventure sonore, questi immaginari e questi esperimenti de facto proprio compiuti su materie come in questo caso quella di Romolo Grano, elettronica, musica elettronica, volume 1, disco anch'esso insomma decisamente avventuroso e che riesce a spaziare da momenti così quasi rilassati a altri momenti, come dicevamo prima, c'è sempre questo senso così ombroso poi del futuro, della macchina, non ci si fida quasi di quello che sta dietro la macchina, dell'uomo, ma non uomo in termini generali, ma collegato appunto a una società, a un sistema, a una struttura. Questo insomma non veniva mai perso di vista. Tra l'altro appunto proprio la struttura viene analizzata da Romolo Grano e con i vari filtri, le varie possibilità date dalla musica elettronica. Diciamo che il tema della musica elettronica diventa poi un'esplorazione della stessa musica elettronica e quindi il riflettere poi dà appunto creatività e si fa da questo riflettere su un tema comunque come quello della musica elettronica degli anni 70, era un tema decisamente aperto e come. E se broadcast riprendevano insomma immaginari quasi orrorifici gli italiani, Romolo Grano tematizzava la musica elettronica facendola poi di fatto, no? E addirittura temi larghi che potrebbero anche far sorridere se pensiamo a etiologia, ad esempio, veramente un po' ci fa sorridere, se non altro un disco veramente eccezionale. Noi non andiamo a prendere comunque dei pezzi da etiologia che vedeva vari autori dentro appunto quest'idea del sonorizzare tra cozze, vongole, insomma, e faccende ittiche varie, ma andiamo a prendere biologia marina, quindi qualche cosa di un po' più largo, meno specifico, diciamo, seppur insomma molto interessante, soprattutto in termini culinari, l'etologia e biologia marina, quindi da tra bollicine, tra mostri marini e pesci che aleggiano dentro la fantasia di vari autori. Ci andiamo a prendere appunto alcuni sprazzi di personaggi che musicano appunto col tema della biologia marina, questi mondi marittimi che poi sono marittimi ma veramente hanno quel senso liquido poi che ci porterà direttamente ai nostri giorni, senza per forza citare Bauman, però di fatto c'è veramente anche un superamento, e questo poi è l'eccezionalità anche di queste musiche, il tema è pretesto per veramente andare in mondi che sembrerebbero familiari, poi in realtà diventano quasi appunto fantascientifici o comunque fantastici. Biologia marina. Thank you. Thank you. Thank you. dire di Gerardo Iacucci, che è musica incredibile, che è musica che veramente va a toccare varie corde, sia quelle fisiche ma anche quelle così più astratte, il suo simbolismo psichedelico, simbolismo psichedelic, prende tanto dalle musiche psichedeliche appunto degli anni 60, ma tanto anche da un mondo jazz, da dove tra l'altro proviene proprio Gerardo Iacucci. Ricordiamo ad esempio un disco bello e importante come Jazz a Confronto 30 da parte della Oro Record italiana, che ha stampato cose eccezionali come dischi di Sam River, che insomma ha esplorato come etichetta faccende piuttosto grosse legate alla free improvisation, improvvisazione libera degli anni 70, quando insomma si stava spostando il baricentro dall'America all'Europa, con insomma la diaspora di tanti free jazzisti e di sperimentatori legati appunto a quelle musiche. Ma dentro simbolismo psichedelic troviamo anche mondi tribali e momenti insomma decisamente alterati. Se pensiamo che insomma Gerardo Iacucci ha dedicato molti dei temi delle library all'avventura, avventura, proprio un disco, l'avventura, anche perché è legato molto alla Saint-Germain-des-Prés francese, e quindi insomma anche con titoli che diventavano non soltanto dischi diversi ma anche titoli che venivano titolati in italiano o in francese, con materiale, ripeto, diverso, però appunto legati magari a etichette tra italiane e appunto francesi, e soprattutto con la Saint-Germain-des-Prés, che fu una delle più attive per quanto riguarda le musiche avventurose della library. Gerardo Iacucci lavorò anche con un altro geniaccio della library come Amedeo Tommasi, con giochi di bambini, Enfant Divertissement ad esempio, proprio legato al bambino e all'avventura di questi, con invece simbolismo psichedelic, forse anche con industria numero uno, si va invece su industria numero uno, soprattutto su meccanizzazioni anche piuttosto estreme per il 1972, e con questo simbolismo invece psichedelico si va a trovare musiche inaudite che appunto prendono veramente a piene mani da linguaggi insomma dell'improvvisazione libera, come anche di una space age portata alle estreme conseguenze sperimentali, pezzi come Fantasmi lunari, Introversione, Ossessione notturna, Alchimie, Alambicchi, ma perché no anche Nevrosi mentali, Claustrofobie, Ambizioni, fino ad arrivare all'ipnosi finale del disco, appunto, con Tribalismi, che vengono ripresi a piene mani da questi italiani odierni, attuali, Cannibal Movie, che insomma spesso riescono a ricavare da materiali legati alla library e a un mondo orrorifico, che ad esempio abbiamo ascoltato prima con Broadcast, anch'essi mossi, questo duo italiano, da un immaginario pulp, se non addirittura a volte così legato appunto al mondo movie, ma a momenti anche gore, a momenti insomma piuttosto pestati, come immaginario violento e sanguinolento, e con un disco molto interessante come questo Mondo Music, legato appunto evidentemente al mondo movie, già insomma La ragione sociale ci dice tutto su questo duo del Sud Italia, che riprende anche momenti magari legati alle maciare, chissà, e a quindi le streghe, soprattutto del sud, magari con quell'immaginario deviante pagano, insomma, deviante rispetto alla religiosità cattolica, che ancora insomma aleggia certi momenti che hanno sì questi sprazzi paganeggianti, per quanto insomma siano veramente stratificati, nascosti, ma poi d'altronde basta tornare indietro neanche di tanti anni per invece ritrovare ad esempio in termini proprio di immagini anche quelle di De Martino, ma anche quelle così rese narrate in maniera fantastica ad esempio da Lucio Fulci, che dedicava proprio alla maciara, no? Quindi alla strega del sud, film splendido come Non si servizia un paperino, e qua ci vuole poi musiche di Ennio Morricone, ma vabbè, i giri e i giochi di specchi possono essere veramente tanti. Ci andiamo a sentire appunto Mondo Music per questi cannibal movie, proprio immaginario più tremendo di quello dei cannibali. Che volete, Ruggero Deodato, se è poco questo. Cannibal Movie del loro mondo music, veramente mondo music, perché si riprende tanto da certa library più legata al mondo orrorifico, a temi insomma che sono spaventosi. C'è un gioco decisamente interessante dentro Cannibal Movie e con il loro mondo music, sia in termini di esplorazioni tribali ma anche di quel suono che magari abbiamo sentito con Skaters, quel suono quasi triturato, volutamente brutto, e questa musica appunto brutta che perdonatemi insomma lo simoro, però un grande fascino, una grande anche bellezza proprio nel suo essere compiuta proprio con questo suono sporco, con questo suono che ci riporta insomma anche registrazioni di fortuna a momenti dove appunto si sperimentava anche con strumentazioni che poi diventeranno insomma una sorta di mitologie della macchina e dei macchinari sonori, quella appunto dei vari Gistio Macchi, dei vari Ronzo De Filippi, Romolo Grano, e perché no anche quelle di Ron Jasin, che ci andiamo a prendere da KPM Music inglese, e anch'essa dedita a musica insomma library di vario tipo. E tra l'altro Ron Jasin è forse più che tra l'altro insomma è soprattutto conosciuto, se il nome non vi dice niente, forse Music from the Body qualcosina vi già dovrebbe accendere la lampadina, visto che c'era un certo Roger Waters che lavorava insieme a Ron Jasin, e poi soprattutto fu coautore di Atom Heart Mother, s'avanza a dire anche a questo punto, cioè insomma disco celeberrimo insomma della carriera dei Pink Floyd, del fluido appunto rosa, e con Roger Waters fece questo strano disco di library, poi alla fine tema e la musica, i suoni del corpo, già la copertina insomma, questo scheletro con i vari organi ben insomma evidenziati, un disco che è piuttosto bizzarro, eccentrico, comunque merita un ascolto veloce, ma soprattutto meritano ascolti non veloci ma assolutamente approfonditi, i suoi Electro Sound appunto per la KM Music, sia il primo che il secondo, e anche Atmosphere eccezionale, appunto i temi sono le varie atmosfere che vengono esplorate da Ron Jasin, ma appunto trovando lavoro molto molto interessante legato all'elettronica, ci andiamo appunto a prendere Electro Sound del 1972 appunto da parte di Ron Jasin. Ron Gisin dal suo Electro Sound, macchine impazzite e suoni elettronici che diventano insomma assolutamente futuribili e futuristici per un personaggio insomma che ha collaborato anche per opere insomma decisamente famose come Atom Heart Mother e come lavoro appunto bizzarro, così definendolo tale, con Roger Waters, musiche del corpo, concludendo e quindi facendo insomma così una coda anche lunga rispetto insomma al salto temporale tra Ron Jasin e i suoi Electro Sound e i lavori da parte di CTI, Conspiracy International Project di Chris Nkose, fondamentalmente quindi di Chris Carter, i Cose Fan Tutti, e quindi anche lì in nuce quelle sperimentazioni elettroniche che poi partivano dall'industrial, che hanno sempre avuto già in certi Throbbing Gristle certe ombrosità da mondo B, da B-movie, da library sconosciute, quando veramente ancora erano dischi che quasi non esistevano, tra l'altro stampate anche in copie molto limitate, battute a prezzi incredibili da qualche tempo a questa parte, ma già insomma la library di fatto esisteva in termini sotterranei da parte insomma di collezionisti folli e anche folli come ascolto insomma, oltre che come insomma ricerche, perché insomma veramente difficilissime da trovare, e adesso insomma tramite la rete si riescono finalmente ad ascoltare lavori che sembravano più che altro così facendo inventate, se non appunto ascoltate in qualche documentario, in qualche filmaccio veramente di serie Z o dentro qualche spot e sigla, e CTI quindi una delle sigle importanti dell'elettronica, anche delle elettroniche insomma che ci riportano, che fanno ponte tra l'elettronica ascoltate questa sera, tra virgolette arcaiche, library e però molto futuristiche, e le musiche invece tecnoidi degli anni 90, degli anni 0 fino ai nostri giorni. Ci andiamo a prendere appunto da secondo volume dedicati, vari volumi dedicati a la Library Sound appunto da parte di CTI, Chris Carter e Cose Fan Tutti. Io vi rimando al prossimo 451 Frammenti Sonori, non ci sarò per un paio di settimane, non vi preoccupate o preoccupatevi, che ne so, fate come credete, buona liberazione comunque per il 25 aprile e fatela diventare insomma, facciamola diventare una cosa più a lungo periodo, perlomeno in termini insomma di immaginario nuovo, insomma che si ricrei una prospettiva di società nuova, di perlomeno di idea di società nuova. E appunto vi rimando tra qualche insomma 451 frammenti sonori, vi lascio comunque ai 451 intersezioni e vi lascio per il momento a CTI e al loro Library Sound, così per concludere appunto con gli inglesi e con la loro library.